www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le luci non si spengono mai, Kappa e Drago tengono in pugno la situazione. Nella stretta, il pugno stretto, sì, ben chiuso. Di vincolo, starnazza. Per forza, Drago, è una gallina, cosa vuoi che faccia? Se mi agolasse sarebbe un gatto, no? E allora? Con il polo nel pugno mi sento tanto Don Abbondio. Cosa Don Abbondio? Sì, dai, Manzoni, la peste, Camus, quella roba lì, no? Dai, adesso dobbiamo ammazzarla, quindi... Le tue idee, dai, non è meglio rubarle al macello, le galline? Perché? Almeno sono già utilizzabili, questa invece è viva e vegeta. Tagliamole la testa. Sì, e come? Allora le tagliamo la lingua e la lasciamo penzolare con le gambe legate, così il sangue finisce in un catino. Ma che impressione, cara. Allora le torciamo il collo. Ma cappa! La mangiamo viva, non lo so, Drago. Hai deciso tu di rubare la gallina viva, quindi la ammazzi tu. No, oppure no, la lasci libera. No, giammai, giammai. Adesso calmati, La gallina è in mie mani. In mie mani, vorrei dire. Vabbè, la gallina è in nostre mani e se non viene Gino Strada in persona a trattare, io la tengo qui. Ma No, con Gino no, Io non posso fare mediatore, Galinha. La fabbrica di polli. Pronto? Pronto? Kappa? Sì. No, volevo dire che Gino Strada è impegnato. Non può venire a trattare per la gallina, Però c'è qui il suo cugino. Suo cugino? Sì, sì. Si chiama Dino, Dino Strada, è quasi uguale, no? Va bene lo stesso. Ma Dino Strada, ma dai, è come volerle Adidas e comprarle Abbas. Io di più non posso fare, Vabbè, allora io la gallina me la mangio, a meno che non escano fuori argomenti convincenti. Tipo, non lo so, mi danno uno struzzo già macellato in cambio, allora io sono a posto. Con uno struzzo in tasca, io mi sento a posto. E allora, Dino Strada, che è qui, no? Che qui con me. Lui offre una fauna del 2005, è congelata. Può passare così? No, ma del 2005. Vabbè. È un po' passata, scusa. 2005. Poi una faraona è troppo poco, dai, almeno un'oca di quelle belle grandi. Ci faccio il salame, chi si è visto, dai. Allora, Dino dice che al massimo, al massimo, ti possono offrire una nidiata di gallinelle cambogiane, no? Che tu puoi ridurre schiavitù. E quelli, guarda, che rendono anche 6.000 euro al giorno, Sono una cinquantina, quindi tu fai il calcolo. Ecco, oppure, ti serve per caso una videocamera ancora imballata? Quella la fanno in Cina, però la fanno uguale a quelle tedesche. Che telecamera. E allora c'è un camion di coltellini svizzeri, No, ma senti, ma io, ma Diadino, io ho fame, cioè io voglio mangiarmi la gallina, hai capito? A meno che non mi diate qualcosa di più grande da mangiare, io mi tengo la gallina. Cosa me ne faccio di una telecamera giocattolo cinese? Allora Dio dice, al quale giocattolo? No, perché cinese è cinese, ma non è mica giocato. Vabbè, ho capito, ma non si mangia. Ecco, adesso dice che con la volontà politica si può fare tutto, eh. No, vabbè, allora niente, mangio la gallina e tanti saluti. Ecco, adesso dice che suo cugino Gino si incazzerà molto, eh. Vabbè, ma con te o con lui, perché... Ecco, tutti e due. Sì, e vabbè. No, perché quando suo cugino Gino si incazza, non cazzi, In the middle of nowhere. Radio Erkmenistan, la meglio stazione da tutto il Manachar. Attualità sul Mullah Salahar. Sport con atleta tutta vestita alla radio. Spettacolo di donne tutta vestita coperte alla radio. Religione con sermone di Mullah Salahar, tutto vestito del capo di piede alla radio. Terrorismo internazionale con comunicate di schegge impazzite con bomba sporca dentro di bidone in cortile. Radio Arkmenistan, il palinsesto più completo tra le libere radio imbavagliate del Medio Oriente. Arhamala Akhala. Akhala. Mi piace partire in macchina d'agosto. Resto in coda volentieri alla cassa del bar. Resto in coda volentieri sulla riva del mar. Resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul via. Io voglio far le cose tutte quante insieme a voi. Non voglio stare solo, restare solo mai. Io voglio far le cose in diretta con il mondo. Non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. Voglio un elicottero con pilota. Senza il pilota non me ne faccio niente dell'elicottero. Capite o no? Allora la gallina rapita sta bene, però se non arriva l'elicottero con il pilota, presto finirà arrostita sulla fiamma. Capa, ma ti sembra il caso di mettere in piedi tutta sta baraonda, certo, per una gallina? Certo. Ma dai, ma fosse l'ultima gallina rimasta capirei, ma in fondo è una tra migliaia. È una questione di principio. Sì, come la guerra in Iraq. E poi non sappiamo nemmeno come ucciderla, ci fa pena, cioè non lo so. E nell'elicottero fate in modo che ci sia anche una cassa di Veuve Clicquot. Se champagne, ben freddo, chiaro? Chiedi anche due ostriche. E anche un vassoio di ostriche. Ma hanno ammazzato la gallina. Vabbè, meglio così, almeno possiamo mangiarla. Ma è tutta spappolata dai pallettoni. Sì, è vero, allora che si fa? La gallina è morta. Lasciate perdere l'elicottero, anche il pilota. Portate solo ostriche e champagne. Freddo, per favore. Che sia verdicoa. Che cosa succederà adesso? Ostriche e champagne arriveranno in buone condizioni ai due rapitori K e Drago? E quali altri segnali arriveranno dalla fantomatica Radio Irkmenistan? Harman, Harman, Irkmenistan! Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo invulnerabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. No more.